sono Cristian. Attennando, ma forte sì, con l'antenna 2. E se ne so, io sono sacco il cuore lì, parcheggiato. E cappa, e un bel forte mi arrivi, adesso sono con l'antenna 2. Sono minorita adesso. Cappa, e tu come mi senti? A bomba lì. Va bene, guarda, quella è perfetta, un segnale perfetto. Cappa, adesso portati l'ino, l'Intec. Sì, già, va bene, dai, la voglia ce l'è. L'antenna è una Storm 27 questa. Già va bene, già va bene. Qui stai innescando un po'. Adesso te ne scambio? Prova. Adesso te ne scambio? Adesso un po' meno. Adesso? Va meglio, no, poco fa c'era proprio il fischio. No, è il microfono, il microfono che ho sotto il baracchino. Adesso va bene, va meglio. Qua è molto, va molto bene, così è. Avanti tu. Non sai cos'è, è l'M95 che deve essere non è compatibile con questo apparato, consuma il Mekigain innesca. Ce l'ho anch'io il microfono lì, se lo uso qui in casa con qualche watt in più mi fa anche a me il ritorno di frequenza, cioè innesca, rientra qualche radiofrequenza all'interno e lo disturba, non deve essere schermato un granché, dai. Invece in macchina lo uso e va bene. Ma io ce l'ho in macchina, e quello è bello. Ma stai usando qualche amplificatore, no? O liscio? Liscio liscio, come liscio perfetto. Dai, dai, chiudete, mi state disturbando il televisore. Vabbè, qua mané. Ma io chiudete i baracchini, dai, che vi vedo su canale 5, dai. Ma niente, questi potenziometri. O io spacco gli smitter. Stanno andando alla grande, eh? Stanno andando alla grande, abbiamo già posto l'antenna. Hai aumentato qualcosina, lo sai? Sì, sono agganciato, dai. Aspetta. No, adesso è staccato. Va bene, comunque ci va bene, è chiaro anche agganciato, eh. Sì, già è. C'è abbastanza buono. Buonasera, comunque, chi c'è? Oltre a Cristian, e a te Franco, chi c'è? Sì, c'è Marco, forse c'è anche Marino in ascolto, poi c'è Natalino. Finanza a TV, via. Saluto a tutti i cuocomani della frequenza, davanti a Natalino. Parlate uno a uno. Tu non è drogato, è peggio. Ora dove sei? Caffa, adesso sono con l'antenna piccola, ma con un altro apparato. Com'è? Apriamo un mulino, scatta, andiamo, un attimo di bianco, me le vuole mutare e rientro. Caffa, sto provando a vedere se bomba. 9.30. Caffa, sono con un altro apparato, adesso batti ne ho, un altro apparato e... come si dice? E va bene, là. Io abbiamo capito, benissimo. Con la Storm attaccata. No, non si sciolga l'antenna. Va bene, a voglia. Non mi sciogli l'antenna. Ti pare mezzo rubio, no, che si vede questa cosa fosforescente. Ho messo la lucina sull'antenna. Ma come di aver freddo, dai, da raffredda. Ma sono la calda in macchina, va tranquillo. Qualcosa non si sposa per niente col K, non si sposa per nulla. Cioè, va bene solo nei baracchini questa antenna. Non puoi pretendere, dai. Marco. Sono dormito. Perché mi è uscito Marco, ha abbandonato il gruppo sul telefono. Marco Condor. Sì, insomma. Ehi, beh, ti arrivo con Lucio di Cubero. Sì, sì, qua è a LED, poi qua segna 9 più 30, tutti uguali siete, tutti. Capo, c'è un orologio di cobolo sul tetto, e funziona però. Io sono piccolo piccolo. Sempre in vicinanza, Antonio, in vicinanza va bene, poi in lontananza va bene. Vabbè, meglio di nulla. Avete parlato in due? Aspetta che metto la canuta, dai. Vi ascolto anche con un pezzo di filiferro. A me non c'è problema, vi ascolto benissimo lo stesso, tutti quanti. Dai, siamo vicini, non c'è nessuno oggi. Volevo fare le prove con quello di Tizi. Giuseppe, l'altro è Andrea. Giuseppe è il Fuscio. Giuseppe, il fratello si chiama Andrea, così? Esatto, capo di proprio. Esatto. Ma io abito sulla Bodibuti, non c'entro niente con quella zona, sta tranquillo. Tengo tutti. Cos'è, Anto? io sento tutti, non ce n'è problema. Ehi, quanto è messo il tetto, logico, c'hai ricezione, ma qui ancora siamo messi male. Ciao, no, non ho problemi, no. Io sento tutti e no. Non c'è un problema qua, né qua né nella frazione 2. Niente. Io sento tutti quelli che sento e basta, gli altri non li sento. Giusto, Marco? Anch'io, eh. Ah, tu eri nata lì. Scusa Natale. Oiui, quando piazzo l'antenna nuova. Allora tutti sento anch'io. E mi posso schiattare. E allora, c'ho il capo nuovo, oiuiuiui. Ma non ti dimmo. Ma scusa, ci ho tirato il palo, 10 metri di palo per casa mia. E io ne ho più di 10, perché ne devo aggiungere 4 metri a quello che ho già, in modo che sia almeno un 3 metri più alta, da. Ma 10 metri, allora, io passo da 9 metri dal tetto però, dal tetto in su, e l'antenna è più. E vabbè, con 3 metri di antenna più fuori dovrei ricevere a tutti. No, guarda, avete campagna, sono tutto libero, posso fare quello che voglio. Il problema è che l'antenna sotto. Oh, poi in campagna c'ho la mantova 5 sopra 12 metri di palo. Il giorno che me ne vado a campagna non parla più nessuno, la portante a tutti metto. Ah, bravo. Mica se vado in campagna non va da più nessuno a vero, già lo sai. Ci fa uscire l'occhi di paura. Ciao. Ehi, no, non ha giocato a me Natale, ma se mangio già il progetto in testa. Sì, ti posso vedere, bravo, a 4 metri di baro. Allora sì che intendo a voi, ma cracchi. Però col capo che dico io, perché io mi sono accorto di una cosa, che dopo una certa misura era di 58 per te troppo. No, non va bene. Invece se tu li metti l'H500 mi ammettava, è un'altra musica, allora sì che pompa vero. Ci vuole capo buono, ci vuole, ma non dai va. Ma posso modulare senza mutande, o ci sono problemi? Avanti. Ho te parte in 40, una alla volta, e non ho parlato io perché sono senza mutande. Ma sei peloso nelle gambe? No, assai, insomma. Sembra più una femminuccia che un maschio. Ma peloso, sì. Ti faccio il gioco della calzetta. Almeno, io dai, senti. Gioco giù. Se ci sente Paoletto, guai. Oh, ti immagini entra, ti immagini, cavile muona, che è? E mi vuoi andiamo, che è? Allora ci guardiamo. Dai. Dai, caro caro. Va bene, non ci parlare con quello che conosco. Uia, rimettiamo l'importante, rimettiamo. Quella casa è sempre la sua, me lo sai, quella che c'è giù. Dove abitava lui. Natali diceva froscio, non froscio, froscio, camuscia. E così gli ha detto, e lo fa vedere con Adriano, gatta, io che lo difendevo sempre, ha detto, Adriano, non ci parlare con quello che froscio. Poi detto da lui. È un magone, zia. Che grande mago. Tuo uomo, nega. No, ma la mamma la faceva proprio grossa, A 3-4 me ne diceva di tutti i colori, di persona era autunciava, quello che era un po' così, no? Mi dava, a volte poi non ti trovo, sono cazzi tuoi, e lui si incazzava ancora di più. E poi quando lo incontravi era tutto, masciugo capo masciu. Era, cioè non diceva niente, quasi niente. Ehi, qualche problema ce l'aveva, dai. Qualche? Ma però. Io so che qualcuno comunque due giappe ve l'ha dato, Sì, bravo. E qua giù vado a due giappe a Paoletto. Poi via. Ma Cristian, ti sei spostato? Sì, sono sulla Codemonte. Beh, si vede che c'hai segnale con QSB. Sono ancora un po' di buio scendendo a me tutta a casa. E ti ascolto ancora, ti accoppio ancora. Avanti, Natali. E cappa. L'ha fatto veramente, io lo difendevo e tutto. E lui gli ha detto a quello là che ero finocchio io, dimmi tu. Si è girato contro. E allora, secco secco è entrato. Gli ha detto a non parlarci più con me che ero così. Ah babbo. Guarda com'è ragazzi. E allora dopo che andò di via, ribassona, non fa vitava e nennuta. Si friava, rimani e buh. Adesso un po' che non lo vedo. Prima lo vedevo sempre tra Santa Maria e quella zona dove sta lui, da. Io non l'ho più visto. Adesso deve essere un bel grande. La calfusta, su. Cos'è lui? La calfusta, c'è il mal, sai, quelli gocci, sai, lì. Poi sono i giochi, là, la sala rotta, dai, boh. Oh, non lo so, io lo vedo in genere lì, di fronte al cimitero, dai, salendo. Verso Santa Maria. Adesso da un po' che non lo vedo. E anch'io. Però quando è che l'ho visto l'ultima volta, che c'era Antonio Grotte, una festa di carnevale, ci metteva a vendere, vendeva cose, questo quello filato, lo buccone, cose così, però bene, mi bacio, mi dico, vabbè. E lui stava lì. No, non ci ho mai parlato, ripeto, qualcuno me l'ha indicato, così mi dice che sei Paoletto, se no neanche lo avrei riconosciuto. Vabbè. Ma guarda che lui sta benissimo, diciamo, non è problema a me. Beh, non so, la famiglia già ne avrà, buh. No, lui, Marco, deve dare di là. Sì, buh, non si riparte, non lo so. Paura, chi era Cristian? Se era Cristian non lo sento più. Era avanti Cri. Che... Senti fra, che adesso è piccolino, adesso sono. Ma dai. Santiago 7 qua. Perché adesso sono già vicino a casa più o meno. Santiago 1. Guarda, sono già dove c'è la Spinsarda. Sono qui l'incrocio lì con la rotatoria. Io ti sto perdendo. Vabbè pace, dai, già mi ritroverai domani sera, dai. Capo, un abbraccio, dai, alla prossima. Però ci sono gli altri che ti sentono, avanti, Anto. Io te lo sento, non ho problemi, Santiago 7-8, a voglia. Per essere macchinina devi sentire, dai, con 5 batte. No, non c'è problema, no. Però io con 5 batte posso sentire, per essere in macchina. Capo, ma tu non lo senti a coso? L'antenna magnetica è così, lascia tempo che trova, se ammassa, fatta bene, a voglia, da lì dovrebbe sparare la grande, ma comunque lo sento pure io. Non so se mi ascolti tu, Cristian, mi ascolti, sì? Ascolta forte e chiaro, Luca. Forte e chiaro, ok, dai, va bene. Andiamo, l'antenna è in diretta, per il momento sta dando problemi, però, sto notando una cosa, ma vabbè, non è, questo non è affidabile. Tu per andare bene ti dovresti mettere un aiutino qui, un 747, guarda, non sbagli. Lo so, non so, non ho capito. Neanche io lo sento più. Avanti, Cristian, non ti hanno capito. Capo, adesso c'è Pio Pio, sta arrivando Santiago 3 a me. Capo, ma sicuramente sei diventato che fa la doggia, perché non è possibile. Aspetta che mi stanno chiamando. Quindi l'hai messa giù l'antenna, Luca, l'hai portata giù? Sì, per forza, sì. E mi ha sistemato un amico, da. Ho fatto un capolavoro. Tutta sistemata bene, e io me la sono tarata piano piano, e poi mi sono comprato questo oggetto piccolino, già va bene a voi, da una cinquantina di watt, andava. Ora ti porta, cioè, anche se siamo vicini, si vede lo scatto, aumenta. Guarda, di 10 punti aumenta. È ottimo, va bene. Non ne ho per te, se poi stavo puntando sul RM Italy, quello da 300. Però con l'accumulatore trasformatore così, l'alimentatore. C'ho la 50 ampere. La buglia. Aspetta, ci ho attaccato questo alimentatore dal baracchino e l'amplificatore. E poi nel caso già ne ho un altro da 25 ampere, attacco quello, ma non c'è bisogno. Fai che assorba buoni buoni 30 ampere li assorbe. Quindi come ne mettere uno per l'apparecchio e uno per l'altro? Infatti farò così. Ma di che stai parlando? 747? No, dell'RM Italy 300. Chi su già tira già? Già lo so. Già lo so, già lo viaggia. E poi escono bene anche. Quello già pompa. L'RM Italy. Diciamo che non ti fa... come si dice, non ti fa saturare, dai. Però non so quanto ci vuole l'ingresso, questo non lo so, cioè se è 5 watt o 10 watt, non lo so. Così, sì, assoluto, dai ragazzi, da dove arrivi? Ehi, dimmi Chris, ma sei arrivato? Assoluto, a domani, a sera sentirci, dai. Ok. Ci sentiamo. Ciao Chris, adesso ti ho sentito. Pio ti ho sentito, a domani. Pio, questo è il 93. Ciao Cristian. Mica stava parlando ancora. Qui c'è il 93 Radio 5, entra. Vabbè, io ti ascolto basso, ripeto, la mia antenna non è sul tetto, per quello che non. La colpa è la mia. Ciao, vai tranquillo, dai, a domani, dai ragazzi, per il passamento. A domani, ciao. Avanti Natalì. Ciao Cristian, buon tutto alle frusse. Lo sentivi adesso nell'ultimo passaggio, Natalì? Come? Ho detto, se lo sentivi nell'ultimo passaggio a Cristian? Sì che l'ho sentito. Perché io qui l'ho proprio appena, però non ho QRM e quindi lo tiravo fuori per quello. Mica. Chiaro, di positivo, frate, ti ascolto molto di chiaro, dai frate. Anche in ricezione hai aumentato qualcosina, Luca? Sì, tipo Platamona, non lo sentivo, adesso sì. Poi Claudio da Muro ci arrivava tipo 5, quasi 9. Sì, già è migliorato un bel. Cioè da 5 sono 9? 5 e 6 era, sì, 9 quasi mi arriva, sì. Sarò un bel salto, Abbastanza, già va bene, dai. Già va bene, adesso, mi sa che ti compro... Ci stiamo organizzando per comprare una matassa di H155. Sì, l'ho visto l'altro giorno la tua antenna, l'ho accompagnato nei parenti lì in quel centro che c'è da vicino a casa tua adesso, quel loop. Ho visto l'antenna. Sì, la mia. Ma da poco? Saranno meno di un mese fa, dai, 20 giorni. Non ho visto se fosse intera rotta, perché è rotta? Cosa aveva di rotto? No, vabbè, rotta intendo, era tutta quanta, è praticamente bloccato, non comandava più. Vabbè, ma a occhio non si vedeva niente da fuori, dai. No, però era rotta, praticamente per sentire dovevo, invece di avvitare il PL col polo caldo, col capo, là, è un po' sentivo, però c'è stazionarie alte, altissime, facevo qualche passaggio corto, ma niente di... Vabbè, adesso abbiamo sistemato a posto, quella mi farà altri 10-15 anni, Beato te che sei riuscito a smontarla, io invece la mia, tutta... Adesso l'ho tagliata in due. Devo fare una specie di attacco adesso per riunirla, con qualche tubo di alluminio che entri dentro oppure che sia più grande, la braccia da fuori. Vediamo un po'. Dai, mi ha dato un po' da fare a smontarla. Non è stato un gioco. Diciamo che è un po' rovinata perché praticamente la agganciavo col pappagallo e poi picchiavo col martello un po' lo... diciamo uscite graffiata, e vabbè, comunque siamo riusciti, ho messo le fascette in acciaio e tutta nuova, dove c'è lì il nesso del palo lì era tutto marcio, Allora mi ha fatto tutto quel pezzo nuovo anche. Comunque gli ho messo il grasso adesso, il palo che c'è in netto adesso è zingato. Non è vazio nulla, lui. Che andava. No, no, vabbè, no, la mia proprio nulla, anche quel cannellino provato a scaldare, nulla, no. È tutta un pezzo, ormai troppi anni è rimasta ferma con l'acqua dentro, cioè, ho visto che c'era acqua anche dentro. Pazienza, dai, vedremo se lo svegliamo, ce l'abbiamo tutto. Che ci è rimasto? Vuol dire che non l'hai vulcanizzata bene. No, non era neanche la mia, non era la mia antenna, c'era un'altra persona prima, quindi è stata smontata e conservata intera, capito? Sì, fuori a mare, non è proprio idratata a mare. C'è antenna fra? Era una mantova 1, è stata conservata, quindi è entrata l'acqua dal tubo, diciamo, non so, da qualche parte, data acqua, che poi alla fine, quando l'ho presa in mano, ho visto che usciva l'acqua dappertutto, dentro era tutta ossidata, tutto, neanche un pezzo sono riuscito a mollare, solo l'ultimo pezzo, quello dove si accordami, quello che poi doveva essere tutto, penso, funzionato, quel pezzo lì era bloccato, quello scorre come niente adesso, l'unico pezzo che scorre. Ah, la spirale dice, ma c'è come si chiama? Il ribattino, dai. No, l'ultimo pezzo di su proprio, dove accordi l'ultimo pezzo, dove c'è stato attaccato il ragnetto, che in origine quello lì era funzionato, era fissato, adesso scorre. Dove ci tu lì dove accordi il mollone, dai. No, quello funziona, quello l'ho mollato, quello si può sempre. C'era il filo rotto, quel filo che poi entra dentro, che va all'interno della. Dentro la bobina, dai. Quello l'ha rotto, gliel'ho ricostruito. Ebbene, non si può fare niente. I radiali sono tutti marchi, quindi adesso li ho tutti ricostruiti anche quelli, i radiali, sempre mantenendo il supporto in vetroresina. Li ho caricati con un filo di rame da 2,75 m, sono tutti da provare però. No, i miei già li ho recuperati. Praticamente uno si è mezzo rotto, però sono riuscito a farlo entrare dentro. Infatti la prossima volta dovrò stare attento, perché se si spacca il pezzo dentro è un casino. Comunque dove tu inserisci la cosa, la radiale lì, era nuovo ancora, c'era proprio la cosa originale, ti rendi conto? Perché era vulcanizzata bene lì. Perché quello è in ottone, io figurati ero convinto che fosse quello dell'ottone, la boccola del radiale, stavo trapanando, li ho mezzo rovinati, buh. Anche a me è successo, lo sai, pensavo anch'io fosse il pezzo del radiale dentro. Oh yeah. Infatti adesso gli ho fatto delle boccole dentro, in alluminio, però ripeto, è tutta da provare. È che la mantova va provata sopra un palo alto, cioè è inutile provarla in terra. Yeah. No, almeno l'abbiamo fatta a piedi, no altro. Sì, mi ricordo. Praticamente poi una volta piazzata, ma la sono piazzata tutta io, là. Poi loro me l'hanno passata, ma sono finita. Radiali, vulcanizzati, bene, tutto, no? È uscito un bel lavoro, là. Tutta lucidata. Poi il momento già a posto, tutta vulcanizzata bene. Anche su dove c'è il ragnetto, c'era una volta il ragnetto lì, lo stesso, gli ho lasciato il pezzo in plastica, poi l'ho tutta una strada sopra. E vabbè, finché campa. No, va bene, non è che c'è la misura che va dalla punta fino, diciamo, alla parte isolata dove finisce, dove inizia il mollone? 7 metri. 7 metri? Prima che, diciamo, che prenda la vetroresina, dai, da lì fino alla punta, 7 metri. No, dall'antenna 7 metri. Dalla base, da dove a bulloni? Tutto l'alluminio, da giù a su 7 metri. Perché c'è, diciamo, dove la infili sul tubo che ci sono i dadi, dove sono i bulloni, anche quella hai contato. Non so che sta venendo un dubbio adesso. Forse dall'innesto dove innesta la vetroresina, 7 metri, più quello, 7 metri rotti, adesso non mi ricordo, ma c'è su internet comunque. Non lo so, perché non ho mai capito, cioè non ho mai trovato la misura esatta di quella parte lì. Non lo so, perché ancora è importante per avere un inizio per poi accordare, dai. Ah, tu devi vedere quanto è alta l'affare. fai? Puoi accordare, devi accordare da sotto, dove c'è quell'affare. No, che la punta, cioè la mia, la punta è nuova, in alluminio l'ho ricostruita nuova, quindi non so. Quella lì l'avevo aspettata, in origine una gru di quelle che usano per costruire le case, dai. L'aveva piegata a gigotto la punta. Allora, si stava chiamato, il messaggio a Fabrizio è mandato. Allora, allora, abbiamo mandato il messaggio, vediamo, se deve essere... Allora, fatto, dai, vanno bene anche 50 centimetri, no. Aspetta che controllo il messaggio che gli ho mandato. La misura. Però ci stiamo trascurando Natalino, Marcolino Condor, Marino se c'è ancora, avanti, non c'è più nessuno. Io comunque la ringo è 4,80 m. Ma è 5 ottavi, no? Non è 5 ottavi allora? No. E mai escono bene? E la pompa già. Ah, tutti dizzeli, la piazza da me della pompa. No, va bene. Io questa dovrebbe essere una, non so, una mia, una 5 ottavi. Questa è più di 7, quasi 8 metri. Cappa, questa già va bene. Ma secondo me con questa ti riesci di volare dalle gambe sciure, con questa, capito? Perché è molto leggera da lavorare. Io, la punta arriva, la mia punta alla grondaia. La gronda. No, con questa ce l'avresti fatta. Uscire fuori, mettevi il tubo di FD, perché è leggera. Ma appunto ci vorrebbe un tubo leggero. Magari ci agganci pure la grondaia, per un po' col vento, e poi legarla al ferro per stendere. Allora, fra 7 metri è compreso di base. Quindi da zero, diciamo, da dove a Bulloni a su, 7 metri deve essere. E poi accordi con la molla. Ma non gliel'hanno pagata l'antenna? L'antenna è 6 metri e 71, così è fra. Sono 6 metri e 71. La base? La base è 29 metri. 7 metri è circa da. Comunque dove viene tu, 6 metri e 71. 7 metri. Quindi devo vedere cosa ci rimane di antenna e poi allungarla con l'ultimo pezzo, con quel radiale, l'ultimo, e poi bloccargliela, quello adesso glielo faccio a fascetta, invece che a puntatura glielo faccio a fascetta in acciaio. Infatti, unica così. Ma la mamma faccia dei cosi obbligatori, quindi lo devi fare giusto, se no va a coglia. È da provare, perché è tutta nuova, è tutta mezzo accrocchiata. Bisogna vedere se la bobina va bene, perché sicuramente ci voleva anche del cavo, quello che usano, come si chiama, per i trasformatori, quello che è verniciato, come si chiama, quel rame particolare. Ho capito. Non mi viene il nome, io ho messo un rame normale, un cavo normale, è da vedere. Sì, è bella, sì. Ma come l'ho fatto a spezzarla quella? La punta con la gru, quelle gru che girando la agganciata, e ha rotto la punta. Infatti, se non ricordo, gliel'avevano pagata, l'assicurazione gliel'ha pagata nuova, però l'avevamo, dopo poi l'avevamo tolta con l'antenna lì. Ho capito. Andrà via. A casa, sopra il tetto di casa. Hanno costruito a fianco e l'antenna era alta, quindi non si sono accorti che avrebbe toccato l'ultimo pezzo proprio l'antenna e l'hanno piegata. Delinquente. Ma io ti parlo di 40 anni fa, mi. E sugar. Lì, zona di punti, da. Lì l'hanno fatto il danno. Sì, era lì l'antenna, era montata su un bel palo a centro tetto. E la pompava. Luca forse se la ricorda l'antenna lì, ti ricordi Luca? E quale? Della di Ombra. Di Ombra? L'antenna di Ombra era. E che Ombra? Non te la metti. No. Pensavo di sì, perché tu ci sei stato parecchio in frequenza. No, ma trasmetteva dalle punti. Mi sa quando sono andato io non c'era. Può essere, magari non ha coinciso con quel caniere, no? Anni 80, 85, 86, 87, 88, No, non c'ero. E allora quello. E sono entrato 90-91. Forse allora ero già... Forse era già smontata l'antenna, boh. Sicuramente. Vabbè, poi ho lasciato per 10 anni, perché purtroppo, certo, avevo anche raccontato che mi cadevo dal campo. Mi ricordo che avevi problemi con qualcuno lì. No, ma dai, bianco per me, ce la sentiamo dopo. Ciao a tu. E così, vabbè. Marino, ci sei? Marino, non c'è. Poi chi c'era? Natalino? E forse stanno tutti mangiando, che ora è? No, le 9 sono. Cavolo, cavolo. Ehi, ciucucucucu. Cavolo, tu. Che era Alessio? Ehi, ciao, buonasera. Che cosa mi hai combinato? Andavi così bene qua. Perché hai adesso col medico secondo te, scusa, Sì, Santiago, ma non ti intendo. Ma stai scherzando? Qua, Santiago, uno e mezzo modulato. Ah, questa qua è 9.30 quasi qua, fra. Qui è bassissimo, 1.5. Così, l'RFG è aperto. Boh, ascolta, mettiti a posto, guarda, che è meglio. Aspetta, mi arrivavi 9 l'altro giorno, non mi eri mai arrivato così bene, liscio, quando agganciavi mi pare che era 9.30. Sì, qua, senti, fra. Vabbè. Non lo so, qua è così. No, vabbè, c'è un'antenna sul tetto. Ma io parlo di qualche mese fa, ma va bene qua. Sistema tutto, fregatene. Tu mi ascolti bene? Sì, io sì. Cosa cambia? Io gli altri li sento uguali. Lo vedi, Luca addirittura ha aumentato, anche se è vicino a casa. Ha sistemato l'antenna, è ancora più forte di prima. Per me non è cambiato niente. Beh, adesso va bene. Adesso è 7. Sto pompando, scusa. 1.4 stazionari, 80 watt di potenza. Non lo so, cosa può essere successo? Non lo so, dipende da te quello, non dipende da me, la verità. Ti sto pompando, quindi a un certo punto... Non lo so, non so cosa dirti, pare che non ho toccato nulla. Pronto da tutto, fregatene. Stazionari non ne ho, non so neanche si muove lo smitter. Bisogna sentire qualcun altro, tipo me, Claudio, che lui è più lontano, vedere se è cambiato qualcosa nei suoi confronti, o lui nei miei. Che cosa è successo? Per me è sempre lo stesso. 9.30 ti arriva a te. Quasi. Allora. Vedi, sto pompando adesso. A un certo punto. Cosa devo fare? Ecco, 90 watt sono, 1.4 stazionari. Adesso sei arrivato a 8, accordando, un segnale di 8. Quindi vedi tu, a un certo punto, non è che sia colpa mia, la verità. Non lo so, come ti dico, io antenna non è andata a fare prove, il lavaggio. D'accordo, dai, adesso vado a cenare e poi già rientro fra 5-10 minuti, dai, ok, così facciamo la prova. Lampa di tutto. Sì, lui, ciao, bello bene. Ciao, scusate, io mi sono soffitto, signori, quindi sto staccando, mi sono fatto il caffè e le ciambelle aromatizzate alla cannella. Ho visto la babuccia così si è addormentato, hai lasciato la macchia nel... così nel centrino. La bavetta mi scende quando mi addormento, come i vecchi. Come tutti credo, va. Quando ti addormenti a bocca messa. Se non viene la bolla di moccio, tipo i cartoni animati giapponesi. Quando mi ricordo all'elementare c'erano un paio di bambini poverini messi un po' maluccio, dai. Famiglie povere. Arrivava questo moccio verde quando parlavano e usciva la boccia. Minchia. Un saluto a tutti, dai, io chiudo. così mi metto la TV. Ciao Franco, non so chi c'è rimasto, se c'è ancora Luca, Antonio, Natalino, Componi, ho sentito adesso. Ritenete di tutti super salutati. Ciao, buona serata. Ciao Marco, ma di sentire, anch'io, colpa mia, anch'io stavo andando poco e niente, anzi forse niente. Alle prossimine, sì, c'era intanto, ma c'era Luca, e poi è Natalino che è andato via, non ha più ripreso, e Antonio che è andato forse a mangiare, anch'io comunque faccio una scappata a mangiare qualcosa, dai. Alle prossimine, avanti Luca, dici sì. E via. Ciao Marco, alla prossima. Ciao, ciao a tutti, ciao. Ciao Luca. Credo stai fra, ciao. Sì, sì, anche io vado a fare un po' di carica, dai. Alle prossime. Salutami tutti, se entrano. E io ho già mangiato. Ciao, buona carica, alla prossima, fra. Ciao, ciao. E io, grazie, ciao, ciao. Attenzione, 10. Mi senti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova. Per carità, guarda. Sì. Non lo so. Io non ti sento, vedo. Adesso sì. Cazzo, forse ti sento di brutto, prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova. Cazzo, adesso mi senti di brutto. Ma così ti sento anche loro, ti sentono, cazzo. Adesso sei 9, grazie a Dio. E ora ti ci sei arrivato, cazzo. Marco, lo senti a... Mi ha fatto cazzo un coso. Mirko, la notte. Io sento solo Antonello, sento, prova. Arriva Santiago 5. Ciao Gianni. Santiago 5 l'ho sentito adesso. Ma sei 9 la verità, comunque sia, adesso sei 9. Grazie a Dio. Ciao Marco, buonasera. Ciao Alessio, buonasera. No, saluto anche a te, buonasera anche a te. C'è l'amico sta provando il barattino per la prima volta in 27, la verità. Quindi, pensa come vuoi, va bene. Qui si esce a bomba, si esce dappertutto. Non mi sentite di fuori? Io sì che ti sento, a voglia. Anch'io ti sento forte e chiaro, chi sei? Ciao, sono Pietro. Ciao Pietro, buonasera, ben entrato in questo fantastico mondo della 27. Grazie, grazie a tutti, buonasera a tutti quanti, allora. Me la vai, sei arrivato Pietro, piano piano. Marco, in pratica sta usando l'apparecchio tuo, quindi l'FB500S. Ah, ho poco compreso, è un po' cupetto di modulazione, e quindi se mi dici che è quello si corrisponde alla modulazione. Arrivo a segnale 5 e radio 3. Sta solo l'apparecchio tuo, io l'ho regalato la verità, perché l'altro, quello che gli ho dato io per poterlo usare, l'ha sventrato in pratica il microfono, quindi sai di cosa sto parlando, di quello omologato famoso che vendeva, cioè che ho preso tramite internet, quindi in pratica gli ho dato del FM500S, gli ho regalato. Bene, bene, sono contento. A proposito, sai che rovistando in mezzo alla roba ho trovato uno spinotto, un cavo rosso-nero, che come attacco sembra quello del vecchio FM500S. Se torna utile, te lo passo. Boh, non lo so, penso io lo... cioè, quello che gli ho dato è... me l'hai dato a posto tu. La verità, quindi cosa... tiro a parte al limite, a caso qualcuno che abbia un FM500S, glielo diamo, qual è il problema? Non c'è nessuna vergogna, la verità. Sì, 500S oppure 548SX, almeno credo che sia quello spinotto. Probabilmente l'avevo preso di scorta, oppure l'avevo perso e l'avevo ricomprato, capito? A te ho trovato quello, credo, nuovo, quello a tre poli. Addirittura aveva tre cavetti, capito? E già, insomma, vabbè, io già lo sai che me lo costruisco da solo, quindi con l'attacco del... come si chiama, del computer, quindi siamo a posto. Vabbè, avanti, chi c'è nel canale, no? Ehi, entro io, volevo fare la chiamata a Pietro. Pietro, ci sei ancora? Sì, affermativo, vi sto ascoltando, anche se devo tenere la vostra in moto, però almeno due minuti, almeno siete qualcuno. Bene, venera, qua sei Santiago 9 e la radio è un po' barattolosa, e quindi faccio un po' di difficoltà ad ascoltarti. E più o meno da che zona moduli? Dove sei? Adesso in questo momento mi trovo alla parte della strada vecchia di Canica, ma dico in poche parole alla Mondezza, dai. Facendo un tutto fino a dove arrivati alle 4. Andavè, allora siamo vicini, ecco perché mi arrivi con questo segnale, dai. Marco, ma stai uscendo col presidente? Negativo, Gianni. Una cosa simile però. Positivo, perché la radio non è quella che conosco io, quella che preferisco di più, dai, tra virgolette. questa è un po' più sui medio alti, mentre l'altra è molto più bella a teccia, al naturale. Questo microfono a condensatore e gli dà una timbrica un po' così, un po' kitsch, come si può dire? No, va bene lo stesso, l'altra risulta un po' più pastosa, dai, bella più radiofonica di quelle come si tocca. Vabbè, adesso il Jupix lo stavo usando poco in questo periodo, come mi ascoltate? Bene, bene, tu sei, adesso stai sfruttando l'Uranus, un bel apparecchio anche quello, è veramente bello. E la timbrica tipo M93 può essere? M95 questo è. Siamo lì, dai, non mi ricordavo qual era dei due. Sì, sì, M95, vabbè, che c'è in più il bip. Qui a Canada viene la bomba, viene, di lusso. Se alzate un pochettino il volume, mi partono i vetri della macchina qua. Esagerato, dai, no, no, vabbè, no. Perché siccome non lo stavo usando da un po', quindi li alterno. Adesso mi compro praticamente un commutatore, così uso un'unica antenna e invece di stare sempre a staccare e attaccare, uso il commutatore ciccia. Bene, mira, avanti Pompos. Io sono qua, sono in età. Ok, tutto va bene, eh? Tutto funziona e siamo a posto, grazie a Dio. A Torello, io adesso però soprattutto vi devo lasciare, perché adesso stanno già cominciando a partire un paio di camion. Nel caso adesso cerco di passare domani mattina, sempre se ce la faccio, ci sono ancora giornali dalla parte tua direttamente, così vediamo un pochettino. E devo mettermi in testa di prenderti, tenerti in macchina e andare a prendere un attacco per la presa di corrente. Perché sennò qua devo stare con la macchina accesa, è un casino che non finisce più. Vabbè, non c'è problema per quello, non ti preoccupare. Già ce l'aggiamo. Andiamo ai cinesi e pigliamo quello che dobbiamo prendere, non ti preoccupare. Tanto ormai i cinesi già c'hanno tutto quanto, e già funziona anche bene. Se trovi quello giusto, trova giusto. Comunque sono andato con i cinesi di dare Porto Torres. E lui c'è da pazienza, a dire che c'ero mezz'ora passata quel fucile a cosa, pallini da ciocca, guarda, non sapevo se comprarmelo o lasciarlo, se comprarlo o lasciarlo, alla fine me l'ho trascinato via perché sennò mi prendevo tutta la vetrina. già ve lo immagino, non ti preoccupare. Va bene ragazzi, io vi saluto tutti adesso, poi con Antonella ci vediamo questi giorni, queste mattine, dai. Comunque mi ha fatto piacere ascoltare a tutti quanti, almeno quei pochi che siete entrati dentro. Ok? Saluti a tutti. Ciao Antonello. Ciao, ci sentiamo domani, no? Saluto i belli. Buon lavoro, buon tutto. Ciao Pietro, buona serata, dai. A risentirci, avanti Marco. Ciao Pietro, ben sentito per la prima volta e ben entrato. Ciao, grazie a tutti di nuovo. È un vero piacere ragazzi. Bene mera. Ascolta Marco, ma hai fatto nuovi acquisti per caso? Io? No, come ti viene in mente? Lascia perdere. E siccome sei stato molto misterioso sulla radio che stai usando, ho detto va, capisci, ha comprato la radio nuova lì. No, è sempre ordinaria amministrazione, seguirà foto al limite, da non divulgare. Ragazzi, ma cosa mi hai pigliato? Vabbè, no, adesso è a livello di battuta, niente di che, inizia e finisce qua, non ci sono problemi. Cosa volevo dire? Stavo parlando del commutatore dell'antenna poco fa. Che voi sappiate, siccome siete più informati di me e più preparati. Adesso questo lo sto alimentando con 12 volt scarsi. Se dovessi alimentarlo al limite della tensione, tipo 13,5, cambia qualcosa? Quanto hai detto? 12, quasi 12, 11, no, 1.8.9. Ma volevi sapere se potevi arrivare a 13,5? No, dico, se in termini di prestazioni questa leggera differenza di potenziale può creare svantaggi o vantaggi, dai. Sì, male che vada perdi qualche decimo di watt, cioè magari perdi poco, non so, dipende dal tipo di transistor che c'ha dentro. Andavi, dai. No, siccome non avevo altro alimentatore, ho creato praticamente una connessione tramite l'alimentatore del PC, capito? Quindi niente, volevo sapere questo, magari se adesso c'è qualcosa di più. Vediamo se arriva Tonello. Allora vabbè, ci sono certi apparati che sono abbastanza lineari nell'erogazione della potenza. Cioè tu ne dai 12, ne dai 13 a 8, sempre quei watt ti danno, invece alcuni meno volte li dai e un po' calano in potenza, ma una cosa trascurabile, non credo sia così eccessiva. Ehi, no vabbè, un piccolo dettaglio così adesso che siccome li ho collegati separatamente, l'Uranus adesso l'ho collegato con un alimentatore che mi dà 12,38 belli costanti. Questo invece l'ho collegato, ho messo delle spinette e l'ho collegato ad un'alimentazione del PC, dai, che esce fuori dal case. Ho messo due bananine giusto per non caricare troppo l'alimentatore singolo. Antonello, ci sei? Sei rientrato? Sì, sono qua, dimmi. Gianni chiedeva se anziché 13,8 o 13,5 viene da 12, quel tipo di apparato con quel finale potrebbe calare di potenza? Sì, la verità sì. Bene, vabbè, non saranno quegli spiccioli a crearmi problemi. No, qua è tutto perfettamente funzionante, dai. Vabbè, anche non c'è problema, quello. Tranquillo. Ebbene, il vento, tutto bene da fuori? Le antenne sono sempre a posto, perché l'ultimo vento di qualche settimana fa e se c'era la boomerang sembrava una biscia. Sì, tutto bene qua. Sì, oscilla, però bene o male. Chi è? Pomponio, tu sì. Non sento radio. C'è modulazione bassa sempre lui, dicevo, sì, già tutto bene l'antenna, questa non avrei detto, però resiste. Le ultime raffiche erano belle potenti, ha avuto una bella costurata, però è sempre in piedi, dai. L'ho vista che era veramente una biscia, proprio si muoveva da tutte le parti, sembrava un frustino. Però dai, è ancora lì bella dritta in piedi e ciccia. Non riesco a far foto, non c'è luce, non c'è abbastanza luce qua, è un casino. Di giorno mi vede meglio, vabbè, niente di che comunque. A futtidini. No problems. Se vuoi mandarla sono su Telegram, perché ho disinstallato WhatsApp, che insomma non è, mi stava dando qualche problema. Quindi, sono su Telegram se vuoi mandare contributi. E niente, adesso stavo prendendo in considerazione l'idea di comprarmi la Sigma Venom, però non ne sono molto sicuro, vabbè, leggendo un po' qui un po' là sembra che intanto se lo faccia, però ancora non sono ben determinato, dai, e quindi sto pensando ancora un po' se veramente il gioco ne vale la candela, dai. Guarda, io stavo leggendo opinioni su forum, c'è chi dice che va bene, ma c'è chi dice che va male, che dentro la bobina è fatta in modo orribile, qualcuno l'avrebbe definita come una specie di filettino sottilissimo avvolto su un tubo di cartone, perché non è a vista la bobina, mentre nella Energy Osirio è a vista la bobina, però male vedi che un po' di spessore di rame c'è. Questa cos'è? Basta un pezzo di ferro risonante della lunghezza giusta, funziona, ma qualcuno ha detto che come efficienza, qualcuno si è trovato il ROS piatto da 25 a 28 e gli andava bene così, che però non vuol dire efficienza, cioè la gente non dico a Sassa, sui forum è ossessionata da ROS, una volta che l'antenna ha 1 e 1 va sempre bene e poi magari irradia poco, capito? È come un carico fittizio, qualcuno l'ha lodata, qualcuno l'ha distrutta la Venom, boh, non saprei dire, io avrei voluto provarla. E comunque già ci sono vari modelli, vecchie versioni, nuove versioni, c'è la Venom 5 ottavi con 3 radialini, 5 ottavi senza radialini, addirittura si sono viste mezz'onda della sempre Venom con radialini, che una mezz'onda con radialini non ho capito cosa cacchio ci stanno a fare. Secondo me assemblano quello che c'hanno, assemblano, ci hanno una mezz'onda, gli avanzano radiali in fabbrica e glieli mettono alla mezz'onda. O viceversa, non ne hanno e ti sfornano 5 ottavi senza radiali, a me mi sembra una cosa strana. Beh, ho visto anch'io questo, ho notato anche questo dettaglio, perché in vari posti praticamente ho guardato le caratteristiche, con o senza radialini, mezz'onda 5 ottavi, lunghezza 5,50, 5,80, insomma è tutto molto vago, capito? Poi sono entrato sul sito Am Radio Shop, mi sembra, anche loro la hanno in vendita, e niente, e lì si parla di quella 5 ottavi con i 3 radialini, lunghezza 5,80. Sì, proprio Am Radio Shop, le mette anche su eBay e anche su Amazon. E ho letto mezz'onda con radiali, oppure 5 ottavi senza radiali, oppure 5 ottavi con radiali, ho detto ma boh. Sì, sono versioni, addirittura certe sono rimarcate eco antenne, che l'eco antenne non esiste più da anni, ha chiuso, boh, a meno che non abbiano comprato il marchio, usato così per buttarcelo in mezzo. Però sai cos'è già? Se tu vuoi vedere il prezzo attuale della Venom, che so, 5 ottavi, cioè ti costa ormai quasi 60 euro quanto costa la Sirio 5 ottavi, GPE, che sarebbe quella New Energy 5 ottavi che ho io. Cioè, a parità di prezzo io francamente preferisco di più la Sirio o Midland. Addirittura la Sirio ti dà dei pezzi in più, dei manicotti per proteggere gli elementi dello stilo, dove c'è le viti, per irrobustire anche la struttura dell'antenna. Però la Venom, qualcuno ha detto alluminio infame, cioè proprio, poi è chiaro, se tu la metti in alto, se tu abiti a Scala di Ciocca, la metti su un tetto di Scala di Ciocca, arriverai ovunque, ma perché sei in alto, non perché l'antenna sia efficiente. Cioè è tutto a caste, capito? La Venom, dove volevo arrivare, costava 40 euro la Venom fino a 2 anni fa, un anno e mezzo, mi pare 2 anni fa, pre-Covid, 40 euro più spedizione, adesso 60 euro più spedizione, cioè, non ne vale più la pena, tanto vale pigliare Sirio a parità di prezzo. Confermo, dai. Confermo, vabbè, questa cosa dei radiali, per evitare che sfuggino piccioni e cornacchie, vabbè, sono sempre stato più propenso a qualcosa con meno, come si dice, meno appigli possibilità. Abbiamo posteggiato alla Resi, avanti lì. Infatti l'ho chiamato anche su, Antonè, puoi riprendere? Comunque l'antico antifona io l'ho capita già. Allora, chi ce l'ha la loda, chi ce l'ha ne fa un monumento, chi non ce l'ha più, letto su forum sempre Roger K o radioamatori.it o quello che è, Scibile di Amatori, chi l'ha data via perché ne aveva le scatole piene. Praticamente la loda solo chi se l'è tenuta, in poche parole. Vabbè, noia. Sì, poi vabbè, diciamo che per fare una determinata scelta bisogna anche tener conto il fatto di dell'utilizzo che fai della radio, se lo utilizzi spesso, ma adesso più o meno insomma l'affluenza è un po' scemata rispetto a qualche mese fa, quindi sai, ti fai anche qualche calcolo di questo tipo, quindi boh, non so, sono un po' così, 50-50, quindi non sono un po' a guardarmi a guardare fuori.